RadioTube Social Network. Eccoci insieme per la seconda ora del nostro RadioTube, come sempre l'ora dedicata all'attualità della rete dalla rete. Nella prima ora, quella di RadioTube Social Village, abbiamo parlato un po' di televisione, abbiamo presentato una trasmissione che andrà in onda a partire da lunedì su Rai 3, una trasmissione molto interessante dedicata ai ragazzi e ai disturbi alimentari. Ne abbiamo parlato con la conduttrice Francesca Fialdini. Abbiamo parlato di musica perché poco fa abbiamo parlato dell'Eurovision e qualcuno mi ha chiesto dove sarà l'anno prossimo l'Eurovision, visto che è il paese che vince a ospitare la manifestazione. Quest'anno di fatto non avrà luogo la gara, ma solo questa celebrazione. Ebbene, l'Olanda si è offerta per ospitare la manifestazione l'anno prossimo, quindi sarà ancora Rotterdam che avrebbe dovuto essere la sede di questa manifestazione. Per quanto riguarda invece i concorrenti, alcune nazionali hanno già confermato i campioni del 2020, altre come l'Italia invece hanno un concorso nazionale che per noi è Sanremo che decide il candidato all'Eurovision, quindi probabilmente ci andrà il vincitore di Sanremo dell'anno prossimo, ma non lo sappiamo ancora. E poi abbiamo parlato con Bugo perché abbiamo riso, perché effettivamente è uno degli ultimi ricordi prima della pandemia. Ma vi ricordate quando il problema erano Bugo e Morgan che avevano litigato sul palco di Sanremo? Sembra una vita fa e invece è passato poco tempo, ma veramente è tutto cambiato. E abbiamo anche parlato con Lucio Leoni, che è un cantautore davvero da scoprire. Adesso, seconda ora di RadioTube, quella dedicata all'attualità della rete dalla rete, quella di RadioTube Social Network. A proposito dei social network, vi ricordo i miei account social, che sono @MartaCagnola su Twitter o su Instagram. Qualcuno mi chiede l'amicizia su Facebook, ma in realtà non lo uso, quindi non chiedetemi l'amicizia su Facebook perché non lo uso. Lo uso solo per farmi un po' i cavoli dei miei amici, ma lo sanno, non sono una stalker. Ma in realtà io non lo uso mai attivamente, quindi Twitter e Instagram, e poi 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp, anche per le vostre proteste, i vostri messaggi molto arrabbiati. Basta che non mi diciate le parolacce, come Gio da Napoli che dice: che trasmissione del cazzo, però non finisce la parola. Quindi è una parolaccia solo a metà e allora va bene così. 349-238-6666. Però Gio da Napoli, se posso sapere che cosa ti interessa, magari aggiusto il tiro, aggiungo qualche argomento che possa andare bene per te. Il co-conduttore d'eccezione di questa settimana è un bravissimo giornalista, un bravissimo scrittore, un conoscitore profondissimo di Roma, un profondissimo conoscitore del mondo culturale italiano, anche un profondissimo conoscitore del calcio. Però i colori sono quelli bianco-azzurri e non quelli giallorossi. Sono contentissima di avere a RadioTube, un po' triste per non averlo accanto a me, ma contentissima di avere in trasmissione Stefano Ciavatta. Ciao Stefano! Eccoci qui, buonasera. Come se Ciao, tu fossi Marta, vicino buonasera. A me, come se tu fossi vicino a me, ma sei a Roma. Accidenti, sei un po' lontano. Sono a Roma, sì. Stefano, allora, poi parleremo anche di una cosa molto bella che hai fatto durante la quarantena, perché secondo me la quarantena ci ha dato la possibilità di esplorare dei mezzi per ampliare un po' i nostri orizzonti culturali. Ma intanto voglio un po' stimolarti sui video di questa settimana, sulle cose che ci hanno fatto un po' discutere in rete. E ovviamente ieri sera mi hai mandato un WhatsApp proprio a questo proposito, mentre facevo la mia lezione serale di musica. Il video più discusso questa settimana è questo qui. Quando c'è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso, io sono sempre il primo a farlo. Però ci sono i momenti in cui c'è da incazzarsi. Le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, non è un pezzo, non è una voglia riaprire, è una necessità, e io sto e starò sempre dalla parte di quelli che vanno a lavorare, non a divertirsi, per portare a casa quanto necessario, e non permetterò che quattro scalmanati senza mascherina, uno vicino all'altro, mettano in discussione tutto ciò. Non è un penultimatum, è un ultimatum. O le cose cambiano oggi o io domani. Chiudo i Navigli, chiudo lo sport, e poi lo spiegate voi ai baristi. Allora, alcune cose mi sono piaciute di questo messaggio del sindaco di Milano Beppe Sala. Mi è piaciuto che a un certo punto gli è venuta proprio da milanese, se non addirittura da brianzolo di origine come Beppe Sala: Milano ha bisogno di lavorare. Quella proprio, c'è Roberta Frisani in regia che ride perché da milanese di adozione ride perché riconosce un po' la milanesitudine in questo. Per il resto però boh, poi ti spiego perché boh. Tu cosa dici, Stefano? Ma intanto in questi mesi sono andate all'aria tutti i seminari, convegni e i tutorial della comunicazione politica ai tempi di Obama, se ti ricordi bene. Sì, tutto è vero. Raffinatissimo, tutto centellinato, tutto che doveva essere un po' una sorta di prova del 9 della serie West Wings, che però apparteneva a un passato un po' più lontano per gli americani. Quindi è saltato tutto, per cui sindaci o presidenti di regione davanti ai microfoni a un certo punto usano questa frusta, agitano questa sedia come fossero dei domatori, perché devono parlare poi alla fine non quasi più agli elettori, ma parlano ai cittadini, insomma. Quindi è cambiato qualcosa e sorgono anche pregiudizi, per cui sembra così, detto un po' con superficialità, ma sono anche tempi in cui, di fronte alla gravità delle cose che sono accadute e che accadono ancora, le reazioni spesso sono superficiali. A De Luca non si perdona il famoso lanciafiamme sui matrimoni, sui compleanni, sulle feste di laurea anche, invece sì. Si fa parlare, si fa passare in cavalleria, diciamo, un po' il tono da sfuriata, da rimprovero secco di Sala, ma questo dipende ognuno da quello che probabilmente vorrebbe nel politico che lo amministra, insomma. Ecco, io siccome non sono tanto per questi toni un po' paterni, un po' paternalistici, neanche per quelli troppo pettinati alla Obama, non lo so, devo ancora pensare, però mi è piaciuto la spontaneità, però alla fine, secondo me, ecco, un po' più... un po' meno paternalismo. Allora, hai citato De Luca. De Luca, secondo me, si è fatto un po' prendere la mano. All'inizio mi sono divertita anch'io, sì, adesso un po' meno. Questa non mi è piaciuta. Per quanto riguarda i fitti, voglio dare un'informazione a un esponente politico milanese, il quale è sempre disinformato per le questioni che riguardano il Sud. Ha detto che c'è una regione del nord che è l'unica che ha fatto iniziative per i fitti. Ricordo a questo autorevole esponente del nord e del sovranismo, non voglio fare nomi, diciamo, è un esponente che va in giro in questo periodo per l'Italia per farsi guardare gli occhiali nuovi che ha comprato, diciamo. Occhiali color pannolino di bimbo, per intenderci. Ma non mi è piaciuta, confesso. No. Sì, è un po' aprite le gabbie, no? Cioè, se un politico, se un governatore parla con questo tono, con questo dizionario, autorizza tutto il resto di noi comuni mortali a parlare addirittura anche peggio, insomma. Le istituzioni, si chiede alle istituzioni, anche perché sono professionisti del mestiere e dello Stato, di avere un dizionario, una grammatica, una testa che sia diversa dall'uomo comune che siamo noi tutti, insomma. Entrambi, se anche un governatore luogo comune inizia... e l'uomo comune, entrambi, secondo me ci stanno. Esatto, no? sì, a noi è concesso in un certo senso anche di derazzare, perché sappiamo che comunque se sbagliamo possiamo essere in qualche modo sanzionati, però insomma dal politico e dal governatore, dal sindaco, il dizionario deve essere sempre un dizionario istituzionale. Puoi prendere in giro gli occhiali, altrimenti non lo so. Veramente si aprono le gabbie e escono tutti. Secondo me gli ha dato alla testa Naomi Campbell. Quando capisco che ti possa dare alla testa Naomi Campbell, però forse sta un po' esagerando, però poi magari non siete d'accordo con me. Secondo me si rischia poi di assomigliare alla propria parodia. Allora, prima di andare in viabilità, esatto, ci sentiamo un pezzettino di Crozza che fa il professor Locatelli. Roberta, eccolo qua. Professor Locatelli, come mai avete smesso di fare le conferenze quotidiane? La ringrazio per questa domanda. Si figuri. Io di solito ringrazio sempre per la domanda, ma questa volta la ringrazio doppio. ovviamente. Ma non serve, perché guardi, offre lo spunto di condividere pensieri e considerazioni. Sì, va bene. Ma se non le dispiace, partirei con la seconda che mi ha fatto. No, ma io ne ho fatta una sola. Una sola? Sì, ne ho fatta una sola. Io la ringrazio. Ma non ringrazio, perché basta, me ne ha fatta una sola. Risponda, però. E allora la ringrazio triplicamente, per se mi passi, per avermene fatto una sola. Ma risponda, però, perché non fate più le conferenze? Ecco, questa dà proprio spunto. Allora, da un punto di vista medicale, utilizzando i dati in nostro possesso, tutti, derubricandoli, scotomizzandoli, arriverei poi quasi a dire imbricandoli uno ad uno. Quando la parodia diventa, si intreccia al personaggio parodizzato. Ecco, poi c'è qualcuno che si offende e dice: perché non parlate del linguaggio di Salvini e della Meloni? Quelli sì vergognosi. Noi parliamo del linguaggio di tutti. Critico il linguaggio di Salvini quando penso che io debba criticare il linguaggio di Salvini. Questa volta ho criticato il linguaggio di De Luca, non mi è piaciuto. Poi non è una verità assoluta, ascoltatore, che non so come, non hai ti chiamerei di nome, ma non hai una firma. Non mi è piaciuto, punto. E poi non è che dobbiamo fare sempre il benaltrismo, allora gli altri. A me questa volta non è piaciuto quello che ha detto. Secondo me, dire quegli occhiali a forma colore di pannoline o non lo so, non aveva senso. Sembra più body shaming che una color shaming, non lo so, che un punto politico. Sono quasi le 17:17, allora sono in ritardissimo sulla viabilità, linea subito al traffico e poi torniamo insieme, anche perché prima di parlare di cultura, Stefano, voglio chiederti una cosa sulle fotografie, tra poco. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme per la seconda ora del nostro Radio Tube. Mi stavo distraendo, perché poi quando si parla di un politico subito si scaldano i motori. Ecco, qualcuno che dice parlate di Feltri. Allora, poi diventa lo scontro nord-sud, Milano, Roma, Milano, Napoli. No, secondo me proprio è fuori dal tempo. Si rischia di entrare in un discorso che già non aveva senso nel Novecento, figuriamoci nel 2020. Semplicemente non mi è piaciuta quella frase. Secondo me il rischio è poi quando pensi che il tuo personaggio funzioni, lo carichi di più, e se sei un uomo di spettacolo va bene, se sei un politico forse questa cosa, non lo so, è un po' spuria. Comunque, Pensiero mio, arrabbiatevi pure, ma pensiero mio. Stefano Ciavatta, eccolo qua ancora con noi a Radio TV. Stefano, allora, c'è una cosa che volevo chiederti. Questa storia del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è nata da queste foto e queste immagini dell'aperitivo, tra virgolette, abusivo sui Navigli. C'è stato un dibattito che io non mi aspettavo, ma che di fatto è nato in rete, sull'attendibilità delle foto, perché c'è stato tutto un dibattito sul ma l'inquadratura, la prospettiva, le persone erano vicine, le persone erano lontane. È stato comunque un dibattito interessante, perché evidentemente ci stiamo cominciando a fare delle domande anche al di là di quello che vediamo. Io non so, i Navigli li conosco bene, in realtà non vi so dire se davvero le persone erano troppo vicine, la prospettiva. Io a un certo punto mi sono persa, ma c'erano milioni di foto che cercavano di dimostrare una cosa o quest'altra. Però il dibattito era interessante, vuol dire che forse stiamo cercando di andare al di là del titolo clickbait o della foto clickbait. Beh, intanto c'è che il fatto che i posti sono memorizzati dalle persone, dai cittadini, dove ci passano anni e anni e anni. È successo per esempio anche sul litorale romano Ostia, delle foto scattate da un quotidiano con un teleobiettivo su una via che, insomma, fino a pochi mesi fa era la via dello shopping, e le persone erano schiacciate, sembrava tutto completamente ravvicinato, persone che conoscevano bene quella via hanno un po' ricostruito anche la distanza reale, per esempio tra le insegne dei negozi, e probabilmente invece il teleobiettivo, per dare un'idea completa, totale, della via affollata, in realtà restituisce una via che affollata in quel momento non è. Casomai ci sono 40 persone, ma non so, in un chilometro di strada, in 800 metri, 40 persone in 800 metri sono molto poche, considerando che comunque si parliamo di posti molto popolati. Quindi banalmente forse c'entra invece un senso di realtà, se si conoscono le strade, si conoscono i posti, e quindi... Breaking news. Ti interrompiamo Marta, ma per una decisamente una bella notizia, l'ha comunicato poco fa in un tweet il Premier Conte, Silvia Romano è stata liberata. La giovane milanese, ricorderete, rapita in Kenya un anno e mezzo fa, è libera grazie ai nostri servizi di intelligence, così scrive Palazzo Chigi, cercheremo di raccontarvi di più. Eccoci qua allora, io sono molto contenta di questa breaking news, attendiamo poi dettagli dalla redazione. Stefano, torniamo sul nostro argomento in attesa appunto di particolari di questa notizia della redazione che è già al lavoro su questa buona notizia della liberazione di Silvia Romano, di questa ottima notizia della liberazione di Silvia Romano. Il dibattito sul credere o non credere alle foto alla fine è stato interessante, illuminante. Qualcuno ha anche detto, in particolare Luca Sofri ha scritto, in realtà in questo periodo c'è grande richiesta di foto, di affollamenti, perché possono fare notizia, possono creare dibattito, e quindi ai fotografi viene chiesto andate a cercare degli affollamenti. Pare che però ora sui Navigli non ci sia praticamente nessuno, probabilmente insomma anche Roma, mi dicono, deserta, desertissima, Stefano. Ma comunque le città sono popolate, quindi le esigenze, quelle anche più strette, quelle della famosa autocertificazione, ci sono, esistono anche sotto casa mia, che è un lungo viale della periferia romana. Se usassi un teleobiettivo probabilmente sembrerebbe affollato questa mattina, o ti faccio un esempio, fra un'ora sembrerebbe sicuramente affollato. Nella realtà delle cose non è, perché le persone sono sparse. Forse il tentativo è di dire che c'è un po' di gente, solo che con il teleobiettivo ovviamente viene tutto schiacciato, quindi viene tutto, sembra veramente che è un'accolita di persone che uscita tutte insieme, insomma, come fosse un pullman da cui sbarcano persone incessantemente. In realtà non è così. In molti casi che ho potuto verificare per esperienza personale guardando le foto. Ecco, poi ti dico, io sui Navigli l'altra sera non c'ero, nonostante qualcuno mi abbia preso in giro su Twitter perché ho invitato Francesca Fialdini a un aperitivo dopo che lei aveva detto non mi piacciono gli aperitivi. Vabbè, ma perché dopo, quando potremo uscire, lo faremo. Ma quando potremo uscire? Non adesso. Allora, belle cose durante la quarantena. Sembra assurdo dire belle cose durante la quarantena. Ci sono delle abitudini nuove che mi piacerebbe continuassero anche dopo. Faccio sentire un brevissimo estratto, qualche secondo, da una bella iniziativa che si chiama Chiacchiere. Buonasera a tutte e a tutti, buonasera ai miei due soci Stefano Ciabatta e Dario Francin. Per questa puntata di Chiacchiere abbiamo un ospite d'eccezione, abbiamo con noi Gabriele Donnini. Buonasera, ciao Gabriele. A tutti, buonasera a tutti, ciao Stefano, ciao. Gabriele è uno dei maestri del tatuaggio italiano e romano. E abbiamo pensato di invitarlo, abbiamo pensato di approfittare del suo tempo e della sua amicizia per farci una chiacchiera sul tatuaggio, su cosa significa essere tatuatori, cosa significa essere tatuati, ma soprattutto cosa ha significato il tatuaggio per una città come Roma. Perché Stefano Ciabatta, che cos'è questo Chiacchiere? La chiacchiere è un format, per usare una parola, cioè, scientifica del settore, insomma, è un format che va in diretta su Facebook per un'ora, giovedì e venerdì nel pomeriggio, sugli account miei, cioè sul mio account di Facebook, su quello dell'art director dell'Espresso Stefano Cipolla, su quello dell'avvocato intellettuale Dario Franzin, e poi lo carichiamo sul canale YouTube. Fino ad ora abbiamo fatto 8-9 incontri. sono conversazioni tra noi tre su un tema che ci piace con degli ospiti. In questo caso avevamo uno dei maestri, quindi primissimi ad aprire uno studio romano di tatuaggi nella capitale. E abbiamo conversato a lungo su questa passione che alcuni di noi hanno, alcuni di noi invece vorrebbero pandemia sconfitta inaugurare. E abbiamo incontrato anche altri personaggi e così proviamo a fare una sorta di piccolo inserto culturale tra persone che si conoscono per chiacchierare, per dare sì un po' una forma nuova a delle chiacchiere che poi rimangono su WhatsApp, negli audio, nelle conversazioni telefoniche, insomma. Ecco, è una delle belle abitudini che ho preso durante la quarantena, quella di recuperare questi eventi culturali che magari nella vita normale e reale mi sarei persa per la pigrizia di non uscire di casa, oppure perché banalmente erano a Roma e io ero a Milano o viceversa, e invece incontri tra persone interessanti che discutono di argomenti molto interessanti. Mi sono anche ascoltata i vostri incontri sul calcio, sulle periferie romane, sui villini, cose che io non conoscevo, cose bellissime. Abbiamo fatto una puntata con Luca Garofalo sulle palazzine romane d'autore. Siamo andati in onda con Mimmo Calopressi per il documentario che ha fatto insieme a Marco Mathieu sul calciatore Socrates. Insomma, argomenti sempre densi. Devo chiederti però se tu sei del partito tatuati o quelli che si faranno tatuare dopo la pandemia o nessuno dei due? La seconda. Ah, ti farai tatuare perché... dopo la pandemia, ok. Sì, assolutamente. Ecco, io no, non ho neanche un tatuaggio e probabilmente non mi farò tatuare dopo la pandemia. Non lo chiedo al nostro ospite, non vorrei entrare così nel dettaglio sulla sua vita privata, ma lui è uno dei protagonisti dell'altro evento culturale fondamentale della pandemia. Ne abbiamo già parlato, ma adesso c'è la fase 2, quindi voglio tornare a parlare di Carosello is back. Adesso c'è Carosello is back fase 2, da quotidiano su Instagram è diventato settimanale su Facebook. Anche qui poter approfondire dei temi relativi alla cultura, in questo caso in particolare sulla comunicazione, rimanendo seduti a casa, che per noi curiosi e pigri è straordinario. Do il benvenuto al professor Giovanni Bocciartieri. Giovanni, ciao, buonasera, grazie dell'invito in trasmissione. Allora Giovanni, fase 2 una volta alla settimana, ma di la verità che il quotidiano un po' tutte le sere alle 19.45 ti manca? Allora, in realtà a me e a Paolo Iabichino, che è mio complice in Carosello is back, non manca, perché noi ci sentiamo lo stesso, ma senza pubblico fondamentalmente. Ma quello che diceva Stefano Ciavatta, che poi ogni tanto però uno dice queste conversazioni magari sono interessanti e gli altri sarebbero curiosi. No, gli altri sono curiosi, sono fondamentali al di là degli scherzi, perché le persone che ci hanno seguito prima su Instagram e che sono trasbordate, cresciute su Facebook, sono una parte, lo diciamo sempre, ma è vero, costitutiva del programma, perché dai loro spunti, dalle cose che dicono, dai commenti, dalla possibilità di portare relazioni che poi diventano anche ospiti in diretta, ecco, da lì nascono molte puntate. Quindi credo che questo esperimento sociale in cui ci hanno chiusi per una quarantena che è durata più di 40 giorni, in realtà abbia mosso un bisogno di comunità che si è esplicitato anche attraverso progetti come questi. Allora, vi chiedo solo un attimo di pazienza, facciamo una breve pausa e poi mi piacerebbe parlare di cultura in rete, di spettacolo, di comunicazione, per capire un po' queste cose come sono cambiate durante la pandemia e soprattutto cosa resterà di questo, visto che prima di tornare alla normalità ce ne vorrà, ma anche quando torneremo alla normalità qualcosa potremo conservarlo. Una breve pausa e poi saremo ancora insieme. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme con il nostro Radio Tube Social Network. Oggi, ve lo confesso, sto combattendo contro l'allergia, quindi non è facile. Mascherine, allergie, abbiamo tutto. Allora, Parliamo di comunicazione, parliamo di cultura, parliamo di quello che ci ha lasciato la pandemia, delle nuove abitudini, di quello che potremo tenere, di quello che dovremo buttare. Io questi incontri culturali, che poi detta così potrebbero sembrare una roba pallosissima, invece vi assicuro no, perché se una cosa è minimamente noiosa io proprio scappo velocissima. Questi eventi culturali che mi hanno tanto appassionato nella quarantena e che mi piacerebbe potessero durare, così potessero entrare nelle nostre abitudini, perché alcune persone che chiacchierano amabilmente di temi estremamente interessanti, ma anche popolari, come ad esempio, ci diceva Stefano, il calcio, sono occasioni preziose. Allora io ho scelto quella del nostro conduttore di oggi, Stefano Ciavatta. Ancora ciao Stefano. Allora Stefano, ciao. Claudione ha scritto al 3492386666: Ciavatta, re di Roma, miglior penna della notte. Addirittura. Ah, è vero, penna della notte, perché tu la notte romana, che poi detto così, però la conosci bene, perché io ho detto che sei profondo conoscitore di Roma, ma anche delle notti romane. Detto così sembra una cosa diversa, ma no, cioè intendo esatto, proprio. Sembra una cosa diversa, ma non lo è. Ma non lo è, ma non lo è. Non lo so, magari fai più bella figura se facciamo credere quella cosa là. E non lo so, vediamo. E poi l'altro appuntamento che mi ha appassionato, e ne abbiamo già parlato con l'altra metà della coppia di Carosello is back, Paolo Iabichino. Carosello is back è entrato in fase 2 e abbiamo con noi al telefono Giovanni Boccia Artieri. Giovanni, eccoci ancora. Sì, un altro allergico. Che anche tu va bene. Che con mascherina, diciamo, è la combo perfetta, diciamo, per noi. Infatti, è una cosa un po' complicata. Io poi, quando tolgo la mascherina, sembro Homer Simpson, perché sotto sono tutta rossa. È qualcosa di meraviglioso, ma è poco grave, e dopo tutto quello che è successo ci va bene anche l'allergia. Giovanni, secondo te queste occasioni di confronto, di crescita, di discussione su temi più o meno leggeri ci potranno tenere compagnia? Cioè questa abitudine potrà essere qualcosa che abbiamo sperimentato e che ci potrà tenere compagnia anche dopo? Guarda, secondo me quello che abbiamo scoperto fondamentalmente è nella disponibilità di tempo che avevamo, che era un tempo molto dilatato, è la possibilità di trovare contenuti da fruire in modalità nuova. E parlo per la maggior parte della popolazione. È ovvio che tutti sappiamo che cos'è un podcast, tutti sappiamo che cos'è una diretta, ma credo che qui ci siamo superati, cioè che molte di queste cose le persone le abbiano introdotte nella loro quotidianità. Mi vengono in mente le foto che ci mandavano le persone che seguivano il programma Carosello is back, che andava in onda alle 7:45 di sera, che lo ascoltavano mentre cucinavano, oppure qualcuno che lo mette in televisione tramite Chromecast. Cioè abbiamo capito che possiamo portare nell'intrattenimento quotidiano e anche nell'informazione quotidiana contenuti che vengono dalla rete in modo diverso. Se questo tipo di abitudine, come dire, si radicherà, è perché l'abbiamo sperimentato nella situazione peggiore che avevamo, e se vale, perché il problema è semplicemente questo, allora ce lo porteremo anche nella normalità che ci attende dopo. Allora, la normalità che ci attende dopo, tra poco vi chiederò qualcosa su quella che secondo voi potrà essere la normalità negli spettacoli. Però rimanendo sulla normalità della comunicazione e rimanendo nel tema di Carosello is back, che per chi non ci avesse sentito prima, per chi non avesse sentito l'altra puntata in cui ne abbiamo parlato, è stata per tutti i giorni della quarantena è stato un appuntamento quotidiano in diretta Instagram conversazioni sulla comunicazione con un codino pubblicitario di un'azienda, così com'era con Carosello, un codino a pagamento. Le aziende cacciavano i dobloni, però per beneficenza. Adesso è diventato un appuntamento settimanale, anche perché i poveri Bocciartieri e Iabichino, insomma, devono lavorare, devono anche fare quello per cui devono pagare il mutuo e mantenere la famiglia. Riflessioni sulla comunicazione, con cadenza settimanale. Uno degli argomenti inevitabilmente toccato maggiormente da Carosello is back è la pubblicità. C'è questo video che ho visto, in realtà è stato pubblicato qualche giorno fa e io me l'ero un po' perso, allora vado a vedere chi l'ha pubblicato e soprattutto quante visualizzazioni ha ora. Microsoft Sam, 1.300.000 visualizzazioni, anzi 1.377.802 visualizzazioni con 19.175 like. Ve lo faccio sentire, è in inglese ma si capisce perfettamente. Come sono gli spot pubblicitari in questo momento? Sono tutti uguali. We will do what we've always done. Take care of people. We're people. People. People. People. People. People. Family. Family. Family. Family. Family. Family. Family. Family. Family. Families. Families. Families. Even now. Especially now. Especially now. Right now. Now more than ever. More than ever. Today, more than ever. Today, more than ever. In times like this. At times like these. During these difficult times. In these troubled times. Challenging times. Trying times. Vabbè, non serve sapere bene l'inglese. È impressionante questo video perché mette insieme tantissimi spot americani, tutti in fila, no? Uno dietro l'altro, velocissimi. Intanto tutti iniziano con note tristi di pianoforte, tutti, le immagini e queste parole che si ripetono. Giovanni, come lo commenti questo mega spottone di spot? Allora, cerco di stare calmo nel commentarlo. No, vabbè, puoi anche non essere calmo, che è Radio 24, no, è una la battuta, gente si incazza anche senza problemi. È una battuta, è comprensibile e allo stesso tempo, diciamo, allarmante. È comprensibile perché evidentemente tutta la creatività pubblicitaria è stata spiazzata dal lockdown, un po' da un lockdown di tipo cognitivo ed emotivo, quindi, come dire, tutti hanno cercato di abbracciare le stesse emozioni nel paese, e immagino che se montassimo gli spot dei vari paesi, con lo slittamento della propagazione della pandemia avremmo il mood che segue esattamente come quello americano. Dall'altra c'era anche l'impossibilità tecnica di girare nuovi certo. tipi di cose e la necessità di non poter continuare con quello che c'era. Detto questo, la scelta è stata quasi sempre di entrare su delle retoriche. La parola retorica non è una parola brutta, è una parola anzi molto positiva, perché ha a che fare con un'arte fondamentalmente, che è quella dell'oratoria. Però qui la retorica è diventata, come dire, la parte più negativa, fondamentalmente toccare le emozioni attraverso gli stessi simboli, gli stessi stilemi, come abbiamo sentito, le stesse parole. Questo ha schiacciato, rendendo indistinguibile i tipi di messaggi. Cioè, fondamentalmente, noi potremmo aver visto un qualsiasi tipo di logo alla fine di qualsiasi messaggio e sarebbe stato uguale, perché molti dei brand, delle marche, non hanno saputo, come dire, attingere al loro DNA valoriale per raccontarsi anche in questo mood, ma hanno preso un mood e ci hanno appiccicato un codino con una marca. Quindi uno o l'altra, come dire, assolutamente irrilevante. Immagino che questi spot, se noi li vedessimo oggi mostrando solamente i primi pezzi, molte delle persone non saprebbero indicarci a quale marca si riferiscono, e quindi evidentemente questo è un fallimento della dimensione pubblicitaria e anche un fallimento della capacità dei brand di stare nei valori che in qualche maniera in questo momento dobbiamo incarnare come comunità. Sono d'accordo. Allora, un ascoltatore al 349-238-6666 chiede: qual è il canale, come si chiama il video? Allora, il canale di YouTube è Microsoft Sam, e vedo che è un canale che ha pochissimi iscritti e ha soprattutto spot pubblicitari, ma questo video che si chiama Every COVID-19 Commercial is Exactly the Same ha 1.377.000 visualizzazioni. Poi potrebbe essere stato anche ripreso, preso da altri canali, io questo non ve lo so dire, però in tendenza c'è questo qui, 1.377.000 visualizzazioni, ed è molto interessante perché davvero sono decine di spot, di commercials, come si dice in America, uno attaccato all'altro, e davvero la marca uno non se la ricorda. Non è un momento facile per riuscire a comunicare un prodotto. Stefano, cosa ne pensi di questo mood delle pubblicità, che anche in Italia poi alla fine è questo? Ma insomma, il mondo delle pubblicità, per me, dal mio punto di vista, diciamo, del giornalismo, sono cose ormai, come mi sento un po' separato, mentre invece forse siamo cresciuti in tutti questi anni come se fosse un linguaggio anche assorbibile dal mondo in parte il mondo del giornalismo, oppure il mondo del giornalismo fosse assorbibile da quello della pubblicità, per cui non riesco a entrare bene nella testa, non essendo un copy, nella testa di chi fa pubblicità, quindi mi trovo un po' sguarnito su questo fronte, insomma. Penso che poi, essendo saltati anche i palinsesti da molto tempo del momento in cui arriva la pubblicità a me, potrebbe andarmi bene quella pubblicità pur essendo in un mood completamente diverso, proprio in questo momento, per cui ci sono dei momenti, non so, della pubblicità anche di fortissimo, diciamo, engagement o di leggerezza che in realtà cozzano con il momento, però probabilmente all'interno della giornata o della settimana beccano quel settore giusto, quella nicchia giusta di pubblico che le fa decollare, per cui ci sono video che stanno andando, io lo vedo anche su YouTube, tendenze in cui mi affaccio spesso, sono video che con, diciamo, a volte con l'attualità stretta di cronaca non c'entrano veramente nulla, però forse sono cose che abbiamo bisogno di vedere o di sentire. Sì, poi il fatto che i palinsesti sono saltati, magari tu il tuo momento esattamente contrario al mood della pubblicità ce l'hai tu personalmente 2 ore dopo che ti è apparsa quella pubblicità o che hai visto quella pubblicità, per cui ormai è veramente una sorta di vestito su misura, sì, che nessuno controlla. Ragioniamo, quindi molto a ondate, ondate emotive. Mi ondate. Sembra che la pubblicità oggi sia la famosa bottiglia della storiella, il messaggio nella bottiglia, no? Che non sappiamo mai a chi è arrivato. E mi sembra che la pubblicità sempre di più sia in realtà una bottiglia che arriva un po' a tutti, prima o poi, e non racconta più quell'emergenza, se ne frega dell'emergenza della persona che da sola mette il messaggio nella bottiglia, è la bottiglia che conta, e ormai arriva un po' a tutti a turno, diciamo. Allora, facciamo una brevissima pausa, vi chiedo ancora un attimo di pazienza, anche perché poi voglio avere una risposta, voglio sapere cosa ne pensa Giovanni Bocciartieri, tra pochissimo. Radio Tube Social Network. Miglior attore protagonista, premio Davide Donatello a Pier Francesco Favino per il film Il Traditore. E guarda che bellezza, tutti gli altri ti hanno applaudito. Ma tua moglie. Allora, questo era un pezzettino dei Davidi Donatello di ieri sera. Bravo Carlo Conti, da solo sul palco ha retto una serata, semplicemente leggendo buste, proclamando vincitori, collegandosi con gli attori a casa, che erano molto più rilassati, molto più contenti che negli altri anni. I Davidi Donatello sono l'emblema dell'attore a disagio, l'attore italiano a disagio durante i premi, con parenti che entravano, la moglie di Pier Francesco Favino, Anna Ferzetti, splendida, che se lo sbaciucchiava in diretta. E una nuova frontiera dello spettacolo. Ma prima di parlare del nuovo frontiera dello spettacolo vorrei tornare sulla pubblicità. Giovanni Bocciartieri, cosa pensi di questa pubblicità come messaggio nella bottiglia, che non sai a chi arriverà e chi potrà aprire la bottiglia e leggere il messaggio, e in che stato d'animo sarai in questo periodo? Allora, diciamo che in parte è vero e in parte non è vero. Cioè, è vero per la pubblicità di tipo generalista e mainstream, che è quella che guardiamo moltissimo, però consideriamo che noi oggi incontriamo molto spesso la pubblicità nei posti in cui stiamo, quindi per esempio pensando alla rete, come dire, nei luoghi che frequentiamo e che sono governati da algoritmi, quindi fondamentalmente la cosa più irritante per me oggi è che in realtà chi fa pubblicità e le aziende sanno esattamente chi potrebbe guardare in quel momento una pubblicità, e quindi non dico che debba essere personalizzata e customizzata, ma in qualche maniera se mi chiedi di fare qualcosa tu devi riconoscere che io lo sto facendo quando tu me l'hai chiesto, per esempio di entrare con un link in un sito, di avere uno sconto, di fare un'azione di qualche tipo, quindi in realtà non è così solitario questo messaggio nella bottiglia, assomiglia più a un flusso di attraversamento che tutti intercettiamo ed entra di più nella vita delle persone di quanto non ne immaginiamo, se no non avremmo in trending topic spessissimo, per esempio su Twitter, degli epic fail costruiti da marche e da messaggi di tipo pubblicitario, oppure dei contrasti politici attorno al mondo della pubblicità, come quello avvenuto recentissimamente per quanto riguarda lo spot di Lavazza. Quindi entrano nella vita delle persone in maniera, come dire, molto più diretta e molto più ingaggiante, laddove siano fatte bene o male, di quanto non le immaginiamo. E infatti c'è un ascoltatore, Giuseppe, che al 349-238-6666 scrive proprio: per me lo spot italiano migliore è quello della BMW con il suo testimonial Zanardi e il peggiore è quello della Lavazza con la voce di Chaplin, troppa retorica senza senso. È uno spot che ha creato un, al di là delle prese di posizioni politiche che lasciano il tempo che trovano, un grande dibattito. Anche quando ne avete parlato in Carosello is Back, c'è stato nella diretta Facebook, c'è stato il dibattito e io ero una di quelle che dicevano retorica, altri dicevano finalmente, cioè forse anche fatto di creare uno spot, fammi dire questo aggettivo tremendo, divisivo. L'ho detto, creare uno spot divisivo che arriva nei trending topic di Twitter e dei social network, comunque vuol dire che l'hanno fatto per bene. Sai che secondo me non è che tu crei uno spot divisivo, cioè funziona al contrario, che tu come dire, scegli a un certo punto di creare un contenuto che sia abbastanza forte e identitario di quello che vuoi esprimere in quel momento, a rischio di polarizzare. Cioè non tanto per polarizzare, ma il rischio di polarizzare, perché se guardate quel tipo di spot non ci sono elementi particolarmente forti che possono portare alla polarizzazione. È quello, come dire, che impatta con le emozioni delle persone, col tipo di identificazione, col tipo di messaggio del momento. Probabilmente in un altro momento avrebbe avuto una funzione di tipo diverso. È ovvio che c'è un'intenzionalità, ma l'intenzionalità è quella di portare un valore e non tanto di polarizzare. Cioè, al contrario di quello che avviene nella comunicazione politica, che molto spesso è costruita per polarizzare, cioè per indicare i noi e loro. Perché uno spot come quello parla di una comunità che si deve ricostruire, no? E ripartire attraverso principi che sono quelli poi dell'Unione Europea, della tolleranza, della civiltà, della democrazia, eccetera, eccetera. E quindi, come dire, possono toccare come dire, sentimenti politici da una parte, ma anche di irritazione fisica, come dicevi tu, rispetto alle retoriche, proprio perché viviamo in un momento dove di questi simboli, messi in mostra da diversi punti di vista, forse ne abbiamo visti anche troppi, e siamo passati in una fase, che è la fase 2, che è quella da cui, come dire, si esce dal lockdown, si cominciano a guardare con occhi veri, no? Con racconti veri, quello che il lockdown ha prodotto, ed è una storia che è fatta di disoccupazione, problemi legati ai figli, i primi suicidi di imprenditori, cioè, come dire, troviamo una realtà materiale che, uscita dalla fase di preoccupazione, comincia a ridiventare centrale anche nell'informazione. E non sarà facile comunicare, no. Poi, insomma, teniamo d'occhio e continuiamo a seguire Carosello is Back, che adesso ha sempre il suo account di Instagram, però va in diretta il giovedì alle 19 su Facebook, tanto cercate Carosello is Back, che adesso pagina è Carosello Facebook, is Back, esatto, pagina Facebook, e lo trovate. Ringrazio tantissimo il professor Giovanni Bocciartieri, grazie, a presto. Grazie a voi. Grazie. Ciao, mille, presto. Giovanni, proprio un'iniziativa che io spero che vada anche oltre la fase 2, perché queste riflessioni sulla pubblicità, sulla comunicazione, sono estremamente interessanti, parlano davvero di noi. Ha arrivato un altro messaggio al 349-238-6666. La gran differenza è che dopo questo siluro, vedere commercial di famiglia alla Mulino Bianco, a amici che si riuniscono a bere birra, ma uno si chiedeva ma che mondo è, una pantomima, non ci si rifletteva. Allora, anche se in ritardo, le agenzie pubblicitarie si sono adeguate alla realtà odierna. Sì, forse prima era tutto un po' stereotipato e poi a un certo punto ci è sembrato proprio lontano dalla realtà, ma è la realtà che è cambiata. Vabbè, insomma, potremmo fare mille dibattiti, però adesso vorrei chiedere una cosa a Stefano Ciavatta sul futuro dello spettacolo e della televisione. Ti faccio sentire un pezzettino di una diretta di Amadeus e Fiorello su Instagram. Se tutto fosse stato normale, insomma, è andato bene l'anno scorso, grazie a Dio, eccetera, eccetera, quindi rifare il secondo Sanremo è sempre rischioso. In questa situazione è come se avesse azzerato tutto. È come se in realtà il prossimo Sanremo non fosse il secondo Sanremo, ma fosse il primo Sanremo dopo il coronavirus. Probabilmente sarà il primo momento di aggregazione dopo che noi passeremo un inverno da settembre in poi senza pubblico in studio, senza purtroppo poter andare al cinema se non forse, e speriamo, a Natale, senza concerti, senza teatro. E quindi il prossimo Sanremo sarà un momento di aggregazione del paese. È come se ci fosse un ponte che collega l'ultimo momento felice, che è quello di febbraio, al prossimo momento felice con la musica e con un pubblico in un teatro, che è quello di Sanremo. Allora, sperando che magari i tempi possano essere più rapidi, chi lo sa, perché già ieri sera il ministro Franceschini alla premiazione dei David ha detto che forse sui cinema si potrà riaprire un po' prima. Però è interessante questo discorso che ha fatto Amadeus su Sanremo, sull'azzerare tutto, come se questa fase ci dia la sensazione di dover ricominciare tutto da capo. Stefano, cosa pensi di questa sensazione che ha trasmesso con questo "non sarà il mio secondo Sanremo, ma il primo dopo l'epidemia"? Allora, la frase che ha detto, la considerazione che ha fatto Amadeus, se la può permettere chi nella vita lavorativa ha una zona chill out. Chi non ha una zona chill out, gli stai chiedendo di rientrare in gara per un fatto poi banalmente di stipendi, quindi di sopravvivenza, ma allo stesso tempo di trovare una sorta di anno zero. E non è facile, non è assolutamente facile, perché in questo momento la realtà del fatto di essere comunque ancora un po' costretti dentro casa o con le serrande abbassate significa che tu non hai modo di scambiare contatti con la realtà. Questo vuol dire che la sensazione di ripartiamo non ce l'hai ancora pienamente, è più un riusciamo poco poco di casa, che non è la stessa cosa. Per cui dal punto di vista di Amadeus, se lo può permettere lui perché ha anche una struttura alle spalle che può ragionare sul grado zero, quindi i prossimi grandi vecchi eventi che sono quelli che sono diventati rinomatissimi come Sanremo, una rifioritura in questi anni, diverranno importanti, però io anche penso perché anche lui ha tutti questi mesi davanti per costruirlo, esatto, per programmare e per comunque al successo dell'anno scorso. Per cui non dico che è facile, però è una giusta osservazione, ma da chi ha una zona chill out che può in questo momento, come dire, isolarsi un po' e pensare, immaginare a 6 mesi. Tantissimi operatori dello spettacolo, adesso non sto a dire ovviamente la retorica che è stato abbondantemente ieri spiegato anche nei ringraziamenti di Favino, tantissime persone del mondo dello spettacolo, del mondo del cinema, non hanno questa occasione di chill out, aspettano di ricominciare per avere un contratto, non per avere la mente sgombera per poi ragionare su un futuro. Per cui chi ha la fortuna o il privilegio, o comunque se l'è guadagnato, una zona chill out, la spenda il più possibile, coinvolgendo il più possibile le persone. Chi ha in mano l'idea di un progetto e ha i soldi per realizzarlo, porti come il pifferaio di Hamlin, porti noi topini dall'altra parte, perché bello, sicuramente ce ne sarà bisogno. Mi piace. Però le persone comuni, normali, pensano ovviamente in questo momento al lavoro, allo stipendio, non hanno un'idea, la creatività del futuro. Rispondendo anche a una domanda che hai fatto prima. Siamo in chiusura, dimmi Stefano. Per me gli eventi culturali e la rete, per me vale il principio di come è venuto su Barbero. Le lezioni del professor Barbero non le aveva programmate online, nessuno le aveva registrate apposta, non ha aperto un canale. Lui voleva dire quelle cose perché è professore appassionato. E il fenomeno è nato perché doveva nascere. Stefano, siamo in chiusura, devo salutarti. Grazie a Stefano Ciavatta, re di Roma. Ti ringrazio. Devo ringraziare anche Roberta Frisani in regia, Edoardo Lavezzari e Alessandro Schirano che mi hanno aiutato per questa puntata. Ci troviamo sabato prossimo.